Fiorenzo aveva delle doti naturali che erano allacciate a un grande coraggio, a una grande tenacia e direi una buona intelligenza. È uno che credeva in quello, nei progetti che cercava di fare, ha sempre creduto in se stesso, ha cercato, ecco la tenacia, ha cercato di superare sempre i disagi più impensati, le difficoltà che la vita presenta, specialmente la vita sportiva di un ciclista, quando allora le gare erano, diciamo, quasi disastrose, perché corse di 350 chilometri, strade dissestate, e quindi occorreva tanta forza di volontà, bisognava rinunciare a tante cose, dei giochi della vita di tutti i giorni per un giovane, e Fiorenzo riusciva a far questo. L'abbiamo definito tutti il terzo uomo. Terzo uomo, ma non sempre è stato il terzo uomo, perché vincere tre giri d'Italia nel periodo di Coppi e Bartali, tre li ha vinti quando c'erano anche Coppi e due quando c'era anche Bartali, perché Bartali smise di correre nel 1954, Magni vinse il suo terzo giro d'Italia nel 1955 a oltre 34 anni. Sai, e una volta, per dire le qualità di Fiorenzo, il grande Girardengo, Costante Girardengo, disse, andando a vedere una corsa dilettante alla quale partecipava Magni: se non diventa un campione questo, penso che non mi intendo più di ciclismo. E Magni diventò campione, ma il campione da essere chiamato il terzo uomo dopo due fuori classe come Coppi e Bartali.